colpito e vorrebbe che giustizia fosse fatta. Ecco, questo era il sentimento in fondo che mi si ispirava in quel momento. Ecco, identificata dunque la gola profonda dell'istituto di idraulica. Lorenzo Rizzato ammette di essere stato lui a diffondere quella documentazione solo dopo aver capito la gravità dei dati che erano contenuti nella relazione e mettendoli in rapporto con gli eventi. Lui dunque aveva capito tutto solo a tragedia avvenuta, ma qualcun altro sicuramente sapeva e non ha fatto nulla per diffondere la notizia scientifica di un rischio, di un pericolo imminente. Ma perché sono stati tenuti nascosti i veri risultati delle prove di frana realizzati sul modellino all'università? Questa è la testimonianza del procuratore del Tribunale di Belluno e dell'onorevole Busetto. Fin dall'inizio, allorché io ho ricevuto gli atti processuali, sia per i livelli amministrativi coinvolti, gli interessi sottesi, i protagonisti di questa triste ed enorme vicenda, ho preso coscienza del fatto di essere davanti ad un grosso processo politico. Franco Busetto. Il punto di fondo era non ammettere la responsabilità politica dei ministri, questo è il punto di fondo. Bisognava minimizzare, sdrammatizzare, anche nascondere, ma purché fosse salva l'immagine del ministro, l'immagine del governo, l'immagine dei partiti dei quali ministri facevano parte. Insomma. È il 9 ottobre del 1963 quando una valanga d'acqua e terra travolge e distrugge Longarone e anche una serie di accuse gravi e pesanti si abbattono sulle istituzioni e sulla politica. Allora, per tentare di identificare il bandolo della matassa così complicata, bisogna tentare di capire fino in fondo la realtà di quegli anni, soprattutto rispetto alla gestione, al problema della gestione dell'energia elettrica in Italia. La diga del Vajont nasce ufficialmente il 15 ottobre 1943. Il progetto viene presentato dalla Sade, uno dei monopoli elettrici più potenti dell'epoca in Italia. Il suo presidente e fondatore è il conte Volpi di Misurata. Il progetto è affidato a Carlo Semenza, che negli anni lo svilupperà ulteriormente fino a concepire il Grande Vajont, la più alta diga a doppio arco nel mondo. Nonostante un progetto così imponente, i controlli da parte della Sade sembrano poco attenti. Ogni volta che la Sade decideva di aumentare l'altezza della diga, il professor Giorgio Dal Piaz, geologo consulente della Sade, si limitava a dare per certa la tenuta della montagna, fino a chiedere direttamente alla Sade stessa quello che doveva scrivere nelle sue relazioni di controllo, come dimostra una sua lettera al progettista Carlo Semenza. Così scrive Dal Piaz: ho tentato di stendere la dichiarazione per l'Alto Vajont, ma le confesso sinceramente che non mi è riuscita bene e non mi soddisfa. Abbia la cortesia di mandarmi il testo di quella che ella mi ha esposto a voce, che mi pareva molto felice. La prego inoltre di dirmi se devo mettere la data di oggi o arretrata. Scusi il disturbo. Il giorno seguente Carlo Semenza risponde: le allego copia del testo al quale ella, secondo me, potrebbe in linea di massima attenersi. Ho lasciato punteggiata una frase che, se ella crede, potrebbe mettere per illustrare le condizioni delle note cuciture fra strato e strato. L'appendice dovrebbe avere l'intestazione e la data che ho indicato sull'appunto. Le confesso che i nuovi problemi prospettati mi fanno tremare le vene e i polsi. Anche la Sade sapeva come stavano le cose. Sapeva che la montagna intorno alla diga poteva cedere. Il figlio del progettista Carlo Semenza, Edoardo, giovane geologo, viene incaricato di fare indagini più realistiche. Semenza Junior giunge a conclusioni ancora più precise. Tutta la montagna, chiamata Monte Toc, non è altro che un'enorme frana preistorica, fratturata e instabile. Lo comunica al padre in un drammatico colloquio. Io mi ricordo che mio padre ci credeva a quello che dicevo io. Poi però lui aveva a che fare anche con delle persone molto più autorevoli che dicevano altre cose, forse non saprei cosa dire. Non so cosa succedeva al Ministero, ecco, se andavano questi rapporti subito al Ministero io non so proprio cosa dire. Penso che la commissione di collaudo era a conoscenza di tutto questo. Questa testimonianza del professor Semenza dunque conferma un dato inquietante, e cioè che al Ministero dei Lavori Pubblici in molti erano informati della gravità della situazione ma non intervenivano. Perché? Sentiamo l'opinione di Giorgio Granzotto, all'epoca consigliere socialista della provincia di Belluno. Il genio civile adottava le indicazioni espresse dai tecnici della SADE. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici adottava le relazioni scritte dalla SADE. Il governo adottava le risoluzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici così determinate. La rappresentanza politica adottava queste risoluzioni. E quindi si creava una serie di anelli difensivi attorno alla SADE e consentiva di procedere indisturbata sulle proprie scelte. All'interno della SADE si creavano solo le crisi di coscienza, ma le crisi di coscienza venivano soffocate dal nascondimento delle relazioni che avrebbero potuto suscitare problemi, allarmi, controlli, per quanto lo Stato fosse in grado di farle. Ma oltre a quello Semenza, c'era uno studio ancora più inquietante, perché ancora più vicino alla realtà, a quello che accadde nel disastro del 9 ottobre 1963. Il professor Leopold Müller, geotecnico di Salisburgo, a febbraio del 61 consegna alla SADE i suoi calcoli definitivi. Nel rapporto, Müller stabilisce esattamente la massa di frana che poi provocò il disastro. Le masse rocciose si muovono verso valle su una larghezza di 1700 metri. La lunghezza media delle masse di scorrimento è di 500 al massimo 600 metri nella direzione di movimento misurata orizzontalmente. Il suo spessore, nella metà inferiore, è in media 250 metri. A mio parere non possono esistere dubbi su questa profonda giacitura del piano di slittamento o della zona limite. Il volume della massa di frana deve quindi essere considerato di circa 200 milioni di metri cubi. E il professor Müller purtroppo si sbaglia di poco. La frana in realtà fu di 260 milioni di metri cubi. E questa previsione così vicina alla realtà era stata fatta 2 anni e mezzo prima della tragedia. Ecco, ma che fine aveva fatto allora la relazione di Müller? Perché la SADE non ne aveva dato notizia alla commissione di collaudo del Ministero dei Lavori Pubblici? Ma era possibile allertare gli abitanti del paese di Longarone? Longarone è un paese della Valle del Piave, a pochi chilometri da Belluno. È un paese tranquillo, conosciuto per essere la capitale mondiale del gelato e di passaggio per le auto che portano i turisti a Cortina. La diga del Vajont, per il paese, è un orgoglio, anche se appena incrinato da voci sempre più insistenti che lassù non va tutto per il verso giusto. È il 9 ottobre 1963. Le scuole si sono appena riaperte. La giornata, una bella e soleggiata giornata d'autunno, è trascorsa tranquilla. Alle 22:44, quelli che già dormono sono davvero pochi. Quasi tutti sono nelle case o al bar, davanti ai televisori, per la finale della Coppa dei Campioni di calcio tra Real Madrid e i Rangers Glasgow. Poco dopo verranno spazzati via da un'onda d'acqua alta come una montagna, veloce come un proiettile la cui canna è la stretta gola del Vajont, proprio dove sta la diga, la bocca di un immenso cannone puntato su 2000 persone. Molti di loro non saranno più ritrovati. Ho perso nel disastro i genitori, i cui corpi poi non sono stati neanche riconosciuti, ritrovati, e 5 fratelli con coniugi e anche bambini. Tra vari parenti, mi pare che, secondo un certo conto che ho fatto a suo tempo, ho perso circa 30 di parenti. Ecco. Perché non abbiamo ritrovato più niente, neanche un oggetto, e tantomeno le persone. La tragedia ormai è avvenuta, però non si poteva, non si può più fare nulla per proteggere la popolazione di Longarone. Non si può certo fare quello che molto probabilmente invece era possibile tentare prima del disastro. Ma cosa nel dettaglio avevano previsto i geologi?

esagerati allarmismi su questa situazione. È l'8 ottobre, il giorno prima della tragedia. Anche gli strumenti di controllo installati dai tecnici sul monte dicono che la montagna si è mossa dai 57 ai 63 centimetri. L'acqua continua a scendere nel bacino, il pericolo aumenta, ma nessuno sembra accorgersene, o almeno sembra voler dare il peso giusto a tutti gli elementi che dovrebbero far scattare l'allarme. Siamo al giorno del disastro, è il 9 ottobre del 63. È una giornata bellissima, c'è il sole. La gente delle case intorno al lago continua ad evacuare le abitazioni e le stalle. Al genio civile di Belluno, l'assistente governativo Bertolissi scrive un rapporto a Roma dicendo: la situazione è gravissima, si attendono istruzioni. L'ingegnere capo Violin lo legge e lo spedisce con la posta normale. Arriverà a Roma la settimana dopo il disastro. L'ingegner Biadene è evidentemente scosso e decide di richiamare dalle ferie in America il direttore capo della diga, l'ingegner Pancini. Gli scrive e chiude la lettera dicendo: mi telefona ora il geometra Rossi dalla diga, dicendo che gli spostamenti della montagna sono ancora maggiori. Che Dio ce la mandi buona. Il 9 ottobre del 63, dal monte Toc, qui sul fianco sinistro della valle del Vajont, si stacca una frana di 260 milioni di metri cubi di roccia. Piomba nel lago, dietro la diga del Vajont, e solleva un'onda di solo 50 milioni di metri cubi d'acqua, che solo per metà passa dall'altra parte della diga, ma è più che sufficiente a spazzare via dalla faccia della terra cinque paesi: Longarone, Pirago, Rivalta, Codissago, Faè. 2000 i morti. La storia della diga del Vajont, iniziata 7 anni prima, conclude in 4 minuti di apocalisse con l'olocausto di 2000 vittime. Ecco la valle della sciagura. Fango, silenzio, solitudine, e capire subito che tutto ciò è definitivo. Più niente da fare o da dire. Cinque paesi, migliaia di persone, ieri c'erano, oggi sono terra, e nessuno ha colpa. Nessuno poteva prevedere. In tempi atomici si potrebbe dire che questa è una sciagura pulita e gli uomini non ci hanno messo le mani. Tutto fatto dalla natura, che non è buona, non è cattiva, ma indifferente. E ci vogliono queste sciagure per capirlo. Non uno di noi, moscerini, vivo, se davvero la natura si decidesse a muoverci guerra. Belle parole, potenti. Sono di uno dei giornalisti più importanti della nostra storia recente, Giorgio Bocca, sul Giorno, venerdì 11 ottobre del 63. Ma non soltanto lui, no? Tutti gli inviati speciali arrivano, e in mezzo a questi signori ce n'è uno di Belluno, e la diga è qua, sul confine tra Veneto e Friuli. E allora questo signore la storia la sente più degli altri e scrive sul suo giornale ispirato: un sasso è caduto in un bicchiere, l'acqua è uscita sulla tovaglia, tutto qua. Solo che il sasso era grande come una montagna, il bicchiere alto centinaia di metri, e giù sulla tovaglia stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. E non è che si sia rotto il bicchiere, non si può dar della bestia a chi l'ha costruito, perché quel bicchiere era fatto ben, a regola d'arte, testimonianza della tenacia e del coraggio umani. La diga del Vajont era ed è un capolavoro anche dal punto di vista estetico. Dino Buzzati, Corriere della Sera, venerdì 11 ottobre del 63. Così un anno alla stazione di Calalzano mi trovo senza libro e poi ne prendo uno all'edicola della stazione. Sulla pelle viva. Come si costruisce una catastrofe, il caso Vajont. Vajont, mi interessava. Dai, compra il libro, parte il treno, leggi il libro. Come si costruisce una catastrofe? Ma la diga non era costruita bene. A regola d'arte. Come si costruisce a regola d'arte, ma che? Una diga o una catastrofe? Signorina, cos'è successo? Guarda che strano. Mario, ce l'hai la luce? Giusto. Che tutto il paese. Temporale, un temporale. Avete sentito? Ma guarda, lassù, lassù, lassù, guarda, lassù, guardate, guardate, cos'è? Si spegne, si spegne! Marco Paolini, attore, drammaturgo, regista, quelli che abbiamo appena sentito erano alcuni spezzoni del suo spettacolo Il racconto del Vajont. Mi racconta quando le è venuto in mente di realizzare questo spettacolo? È successo quando ho letto il libro di Tina Merlin, però non avevo assolutamente idea che questo potesse essere uno spettacolo. Io facevo il mio mestiere raccontando delle storie e facendo anche l'attore con Teatro Settimo in spettacoli con altri colleghi. E ho cominciato a fare questo racconto in maniera privata, letteralmente a casa di persone che erano disponibili ad ascoltarmi. Pian piano questa dimensione si è allargata finché, ma ci è voluto più di un anno e mezzo, e mi sono accorto che l'interesse delle persone era grande e ho cominciato a farlo in teatri via via più grandi. Quanto si è documentato per produrre questo spettacolo sul Vajont? Non basta mai la documentazione, però comunque alla biblioteca del comune di Longarone c'era una straordinaria bibliotecaria che era una memoria vivente di quella storia e aveva raccolto tutte le pubblicazioni anche tecniche, e ovviamente all'epoca c'era solo il libro di Maurizio Rebeschak che ricostruiva con gli elementi delle perizie tecniche la vicenda, e in qualche maniera sintetizzando tutta la documentazione processuale. Per Vajont io non ho usato direttamente tutta la documentazione processuale, gli atti, ho cominciato a farlo per Ustica. Invece comunque sulla base delle pubblicazioni, ma poi iniziando il racconto, acquisendo via via informazioni dirette da testimoni, persone interessate che mi aggiungevano dettagli, ovviamente quello che io raccontavo all'inizio è cambiato. Cosa significa per lei Vajont? Oltre a quello che è scontato e che credo significhi per tutti, è un pezzo di identità. Perché? Quindi, perché la memoria non è una specie di automatismo che si può affidare al calendario, ma è una scelta di lezioni che si ritengono utili. Vajont per me è una lezione che un popolo non può ricevere senza imparare qualcosa. Questo spettacolo sul Vajont, ma anche altri come ad esempio il racconto sulla tragedia di Ustica che lei ha fatto, appartengono al cosiddetto teatro civile. Cosa significa? Io ho usato questa parola per differenziarlo da teatro politico. Non le piace? No, è che teatro politico identifica una un'esperienza che negli anni 70 alzava il dito per dare delle lezioni. E secondo me Vajont non aveva bisogno di quell'atteggiamento, per cui credo che i contenuti siano politici, il modo di farlo in qualche maniera richiama l'attenzione su qualcosa che è anche pre-politico, che fa parte dell'esperienza che si deve mettere in comune per evitare che le cose si ripetano. Dopodiché non c'è nessun rifiuto del teatro politico, c'è solo una diffidenza verso quel teatro politico che aveva delle verità in tasca. Il suo spettacolo ebbe un enorme successo, ha vinto diversi premi, un Oscar per la televisione. Oggi che cosa le piacerebbe raccontare? Io credo che le scelte che faccio sono legate a, sì, in parte a quello che respiro, a quello che vedo, a quello che guardo, ma in parte anche alla consapevolezza che il teatro non è un giornale e non è la televisione, quindi non è sul pezzo nel momento in cui le cose succedono, ci vuole un po' di tempo, quindi tra virgolette è sempre un po' anacronistico, anche se a volte le cose di cui si parla ritornano in maniera diversa. Quindi sono le cose di cui mi sto occupando, non sono cose di attualità stretta. E cosa si sta occupando? Sto continuando a occuparmi di scienza dopo Galileo e sto continuando a occuparmi di economia dopo Miserabili, cioè mi sto occupando di cose che mi appassionano davvero e che un giorno potrebbero diventare anche degli spettacoli, però in qualche maniera alimentano comunque quello che faccio. Il prossimo progetto che vedremo nel teatro, ce lo può dire? L'anno prossimo girerò con uno spettacolo che ho già fatto, che si chiama Ballata di uomini e cani, ed è tratto da alcuni racconti di Jack London, quindi parlano del rapporto uomo-natura, parlano del senso del limite e delle sfide che i personaggi lanciano appunto alla natura, ritornando con i piedi per terra, immaginando Jack London, ricordando Mario Rigoni Stern. Questo è il mio pensiero. Grazie Marco Paolini e buon lavoro. Grazie a lei.